Prova 1, 2, 3, Antonio. Proprio che fa questo? Questo è il Cobra. Mi ha chiesto me. Allora, Cicco. Sopo un poco. Studialo. Hola, hola. Hola. Non si sente, no, sto usando il Cobra. Ma no, sarebbe dovuto salire a fondo scala qua. Come ce lo fa un cazzo? Che avanti. Qua stai uscendo. Arrivando, comunque. Sì, sempre con questo. Ma questo non mi rileva nemmeno, capito? Questo qua. Non mi rileva nemmeno. E perché non ti rileva? Questo non lo so. Che succede? Dicelo a me. Entra Marco Gianni, mi chiediamo a loro. Che succede? Dicelo a me. La cosa è chiara, c'è poco da fare, sulla radio mia la conosco. La radio non sta funzionando, niente. Che è avanti? Che succede? Ditelo a me. Marco! Eia. Stavo dicendo a Arturo, quel baracchino l'altro giorno, ieri, avanti ieri, quando è che mi ha dato un controllo, stavo facendo bene di radio, no? Ma il Force? No, il l'anno 87. Io mi ricordo che eri in fondo scala, Luca, non mi ricordo bene però. Anto, prova a parlare, vediamo un po' com'è. No, qua se io parlo non vi sento, inutile che lo uso. Se io parlo non sento. Qua è successa qualcosa, perché non è possibile. L'apparecchio non sta rispondendo alle cose che devo rispondere. Ti ho detto di non toccare nulla. Anto, io ti sento però. Sì, mi ricordo che Luca stava provando una radio e lo sentivo. E non ti so dire magari la qualità della modulazione, adesso non mi ricordo, però ti sento. Non è questa, è l'altro apparecchio. L'altro apparecchio non sta uscendo, non va bene. È buffo. Si sia attaccata la spinetta della colonnina, tu? No, non sale smitter, non sale nulla. Cioè, qualcosa avrebbe dovuto fare, ragazzi. Non sale nulla, nulla, nulla, nulla. Ah, quindi non è solo la trasmissione. Non riceve, non trasmette, nulla. Dice che a trasmettere e trasmette, adesso lo provo. Però non ti sento. Cioè, se lo faccio con te non ti sento. Qua, adesso lo provo. E Luca, tu come mi senti? Sto provando il 9009, fermo da qualche mese. Bello. Non giù un peso. Ma chi è Antonio? Non mi sente però, anche se gli rispondono non mi sente. Arriva a Santiago 9, ma radio non ce n'è, radio 0. Come sentite con questo? Sì, a tu, sì che ti sentiamo con questo. Ma anche altro, ripeto, io mi sono ascoltato più volte, Marco mi ha dato il controllo lo stesso, e ho capito lì cosa gli ha preso. Non lo so, non funziona la radio. Lo sto dicendo, non va, non parte proprio. Riportamelo. Marco? Sì. Sì, allora, io ho ricevuto Antonio quando ha provato a chiamare. Il segnale era Santiago 9, ma il radio era praticamente zero. Sentivi una specie di fantasma, mi c'era talmente bassa da essere un audio fantasma, però tanto da capire che era Antonio, capito? Il segnale era solo 9 però. Ma c'è qualcosa, non mi sale neanche l'ago. Non tocca nulla! Adesso lo fa arrabbiare il bambino. Oh, che vizio che ha, mi vuole imitare, mi vuole. Oh, non si tocca. Gianni, non si è sentito, Marco? Lui gli ha preso qualcosa, c'è qualcosa che non va, c'è. Non so che cosa, ma qualcosa che non va. Ehi, già si risolve, dai. Già sono apparati semplici quelli. Bene, cioè bene, tra virgolette, bene. Cappa. Ma il coso, il PMR nelle pizze se ne andava alcuna. Semplici come baracchini. Scappa. C'è un bambino che mi fa andare con i scillucci. Ma che non mai capo, deve essere così. Ah. Oh, adesso piange. Lo vedi che mi ha rifiuto. Billy, su che arriviamo, su. Beh, Gigio. Ui, saldo qua. Cappa. Beh, tutto a posto? Esatto, ma sono appena alzato. Ero in coma profonda. Sapere che mi fermo un po', devo fare quella cosa. E cosa? Non ho capito, non ti stavo seguendo. Quella cosa là, in garage. Ah, andava. È meglio a farlo. Che cazzo, è un casino, quel cazzo di roba lì, così. E quando mi fermo un po' lo faccio, non ci sono più sceso io. E io ho dato un cavallo, una busta, pensa tu, sono sempre dato cavalliente. Giorno, se c'ho tempo, non sono fuori. E che ti ho visto lì al concerto. Ero a Nurago, sero. Bello. Lo sai dov'è? Proprio il posto no, però l'ho già sentito, che bello. Più giù di Oristano dovrebbe essere. È un bel pezzo. Quello è il lavoro, purtroppo. Vabbè, poi cazzo di pagare cazzo di una frutta. Sì, a che cosa? Già è un mese. Meglio di nulla. Cazzo, se vanno in macchina a lavare io, per carità, uno schifo. Cosa? Ho detto, se cavallino, guardare lavare io. Ah, vai, cazzo, guardare lavare io. Così, lì è così, io, quanto, cosa devi fare? Una una massa di strozzini, insomma. Sono massa tutti così. Una massa di strozzini. Sono tutti così. Sono molto male gli altri. Ma la gente che dovrebbe cominciare a rifiutarsi, perché il lavoro notturno dovrebbe essere pagato da 60 euro in su. Almeno 80 euro ci dovrebbero dare. Almeno 80 euro notturno. Sì, bisogna cominciare a ribellarci, dirle no, io non te ne faccio. Sì, ma adesso qua a me non vedo l'ora che finisca. Io faccio la disoccupazione, se la bevo in curva, 2 anni. Ma appunto, per continuare a lavorare così, se quando se ti prende la disoccupazione, cazzo, non c'è, guadagni di più di quello che si è degli adigli dei paccati un gambo. Appunto, appunto. Io ho passato l'età, rispetto a 2 anni di disoccupazione. Cioè, è paccato il campo, non va bene così. Scarità. Che gente brutta. È lo schifo. È lo schifo totale. La gente devono pagare adesso, non puoi tutta la notte così. Cioè, almeno qualcosa ci vuole in tasca. Ma certo non ti danno neanche i soldi della benzina, se cazzo. Uso una massa di cazzo di chapelle. Di guarnizione già te la offendi, sì. Curazione. Sì, assicurazione. Tu fai 8 ore, fai 4 ore te ne paghi tu e 4 ore loro. Ah, cosa? Cosa devo pagare io? Che c'è la così? Quelli sono da prendere e fare un farò con la gente lì. E fa cosa? Cioè, ti ingabano di nato e va a pagarti l'assicurazione. E allora? Anche ci sono scemi, sarebbero da denunciare. Lo so. Infatti ci abbiamo il coglione all'aria tutti quanti. Si è messo a denunciare roba di 3-4 persone, l'azienda gliela chiude subito. Ma appunto, sarebbe di mettersi d'accordo con tutti i colleghi e dire adesso basta, adesso avete finito di rompere o di finita qua. Non vedo l'ora di fine, se la bella nel culo. Non è possibile andare per niente, infatti appenditi un sonno, ma nulla. Questi sono matti. Non sono matti, sono ronfi, sono matti, Città. Vabbè, anche dai, che vado a fare una luce, quasi mai ci sentiamo più tardi. Chi è? Brecchete. Non capito nulla, avanti. Avanti canale 10. Buonasera a tutti, sguscio l'assisti per un controllo con la microonda. Allora, segnale con questo apparecchio non te lo posso dare perché non c'è lo smitter. Dovrei andare in sala. Però ti sento bene, forte, molto forte. Break. Qua. Avanti, Gianni, tu sei. Buonasera a tutti, dai, Santa Corto, Radio 5. La radio però è un po', diciamo, non è proprio 5, dai, 4 e mezzo, perché non è chiara. È un po' saturo, deve essere, c'è troppi watt, hai messo troppo di entrate. Avanti, amico Mauro, se lo sentite da parla pesante. Si sente che sta parlando ma non si capisce cosa dice. Santiago 7, Santiago 7 Radio 3, ciao Gianni. Ciao, io non lo sento. Ha detto che ci sente molto bene. Vai Antonio. Cappa, no, qua non mi arriva. Non so dove è, ma non mi arriva ancora. Devo dire che non ci sto, non so. È aperto per la zona di Marco, dai, sicuramente. Parla pesante, zona di Ossi. Ah, capo, adesso ti ascolto, dai. No, io sono un fuscio. Avanti, Laura. nato nella... Sì, e come mai? Probabilmente sono più aperto io. Già, come questo eco? Beh, fastidioso. Ho detto Gianni, questo eco è passabile o è fastidioso? No, te l'ho detto, non è fastidioso, è buono. Che apparato stai usando? Allora, il CRT 9009, era fermo da qualche mese. Ah, ok. Ho sentito qualcosa io sotto, ma non si capisce molto bene. Anzi, è strano, è l'unica volta che riesco a copiare meglio qualcuno io anziché voi. Probabilmente il paese è più verso di me. E l'orizzonte, vabbè, dovrei vedere la posizione del... Ok. Dipende da me, Ussi, perché se vedo un'altra io lo sento bene, Ussi, li copiavo bene io da Ussi. Sadu. Eh beh, già. Ti eri poi rimesso. Ieri non ho sentito nessuno, mi pare. Diciamo che mi sto migliorando. La freddura mi è passata, però degli strascichi che ancora ce li ho. Mal di gola, un po' di roncidine. Ho provato a cantare, ma brutte figure. Beh, non riuscivo più a cantare. Che io sono in questa condizione. E a me me l'ha fatto sicuramente il condizionatore, Antu, ma fottito. Bre 40 avevo e un po' in tutto io. Ho stato molto male. Mi già. Anche l'orecchio vi faccio qua male. Facciamo da poco altissimi. Ho fatto tipo un karaoke suonato lì all'aperto, dove c'è, aspetta come si chiama quel posto, rimane un dei giardini rimangono dentro, che c'è il palco. Non stai uscendo di radio però, a vedere. È troppo compressa la voce. Troppo compressa. Ho detto che sto usando un apparecchio normale. Avevo fatto una serata lì dove ci sono quei giardini. Adesso non mi ricordo come si chiamano. Tipo karaoke all'aperto, una cosa del genere. Che c'erano dei ragazzi lì proprio attissi. Ero col service io, con Rock House, stavo lavorando. Oh, con Alberto, con Rock House lavoro io. Alberto Paolo, no, con Joe Reno, con la Rock House. Non so se conosce a Gesuino, a Cisco. Può essere, poco tempo, pochi giorni fa ero lì a Tisi, che stava suonando il batterista di Piero Marras, capito? Ciao, avanti già. Ehi, Antu. Ti ha bizzicato dove l'influenza? A che febbre c'avevi? Cazzarola. Sono andato lì a coso, a Nuragos, e ho cominciato a sentirmi male già lì nel montaggio, la sera. cazzo, poi di notte ci siamo fermati lì a cosa, cazzo, sono preso un occhio, a Tramazza, c'è un autogrilli, mi sono preso un occhio, cazzo, perché non ce la facevo più. E te l'ha fatto passare, Lucas, perché io sono 3 giorni così, l'ho preso anche io, Lucchi, adesso mi stasera lo devo prendere, dopo che mangio lo prendo. Maria, sono male, cazzo. Adesso mi sono ripreso un po'. Tra un po' facciamo la cena, vero, Cipollino? E piano piano, passano 3-4 giorni, poi ti passa. In massa via di un mare. Ma se anche non sei tu di coronavirus, spacca i gas. Ma che... Via. Adesso vediamo, va. Io sto già bene stasera, adesso gli mando un messaggio, dico guarda c'è qualcosa, gli dico io sto bene, gli dico magari andare domani da qualche parte, perché anche in casa non ci faccio niente. È il bambino che te lo tiene, tuo cognato? Ce l'ho adesso, è qua. Oh, quando vai a lavorare? Beh, normale. Andare. Siamo la gola molto infiammata, adesso mi sta passando. Anche io non ho dormito stanotte, io non ho dormito nulla, gira una parte, gira l'altra, sono buttato, ho visto le tecche e mezzo, sempre gli endemi così. Per carità, guarda, è salita la febbre a 40, ero morente. No, la febbre a 38 o qualcosa, io ho 37,8 ce l'ho. Per carità, anche vomitato. Quello da piccicato più di vecchia. Ma pizzicando questi... bisogna stare attenti con questi cambiamenti di temperatura, magari per qualche posto con condizionatore, come ho fatto io, c'è un condizionatore acceso, qualche vera viene attacchi cardia dal caldo, mi acceso il condizionatore e non magribba dalla base, magribba dall'asso. A che fa di gusti? Ma d'altro che non puoi crepare di caldo, perché siamo sudati da goccioloni. Non te lo devi puntare troppo davanti. Oh, io c'ero in sala, apro le porte, entro tutte le parti, perché è grande il condizionatore, capito? Sì, c'è molto... Cioè. Oh, raga. Meglio così. Adesso mi vado a preparare a mangiare, che il signorino deve mangiare, deve. E va bene, tu se devi andare, vai, non c'è problema. Ciao, buona serata, dai. Grazie per il piccolo questione. Li faccio un pochettino di pasta asciutta, li faccio. Avanti, Marco. Ehi, Anto, buon pranzo, buona preparazione. Io sono così un po' senza argomenti già, un po' spallata. Non solo di essere di disturbare, è anche bello questo ecco. Cioè, ti fa proprio una bella motivazione. L'unica cosa negativa è che è fisso, cioè lo puoi attivare o disattivare, e la regolazione sia del volume dell'eco che della velocità della ripetizione è dall'interno dell'apparato, cioè due trimmer, una volta che trovi la posizione migliore, che non sia troppo invasivo, lo lasci così. Ma è giusto una prova, è per far lavorare il circuitino, Emi. E questa parte la fermo qualche mese, poi l'eco io non lo uso mai. Il bip è uno dei tanti, uno dei 5 disponibili. E così dai. Questo è purtroppo il vizio che scalla questa parata. Dietro scalda a bestia. C'ha più fatta degli altri, però è inutile, scalda un bel. Gli devi mettere, io gli attacco una ventolina con l'elastico per non farlo surriscaldare. Ho capito che io faccio un... E questo vedi, quello che il crepo che avevo io è che in macchina mi fischiava. Non c'era modo, e ho provato con la batteria, con l'antenna, cioè con l'alimentazione dalla batteria, con l'alimentazione a CD sigari, ho provato a cambiare antenna, base magnetica, oppure con la grondaia, con la massa effettiva, niente, in macchina questo apparecchio mi innescava, non c'era niente da fare. Peccato, perché io l'ho preso per la macchina, poi c'ha già i watt un po' suoi, ma pochini meno, non è che sia un granché. Qualcosina in più. È un problema di massa, sicuramente, Marco, un problema di massa, controlla bene la massa, perché non è possibile. Già, ho provato, poi gli ho fatto anche la massa riportata, effettiva mi sulla carrozzeria, controllato col tester. E io però vorrei capire se questo sia un rientro RF e da dove passa, se passa dall'alimentazione, perché il cavo della batteria era lungo, era molto lungo nella vecchia macchina. Oppure se passa direttamente dal mic, dal cavo microfonico, capito? Magari lì l'antenna è a un metro più su e non è abbastanza schermato l'apparato, una mia teoria. Eppure c'è gente che in macchina questo lo usa, l'ha usato e lo usa e non ha mai avuto problemi. Sarà difettoso dalla fabbrica, ma mi sembra strano, ecco. Ecco, non ho provato con l'altra macchina. Non l'ho mai provato con l'altra, perché me lo faceva questo, me lo faceva anche il anche un altro fischiava, qual era? Porca miseria, non mi viene in mente. Comunque guarda, potrebbe essere o il 5005 oppure o la Linco. Niente, in macchina mi fischiano. E quello vuol dire schermatura un po' da 13, dell'apparato. Io invece c'ho il telefono che sta bollendo, ma sono le lanciate dove si vincono bene i primi e non voglio mollare. Sta scaldando di brutto, cazzo, mollente. Ma mentre è in carica? Io. Sai cos'è, purtroppo è una curiosità, tu stai usando il caricabatterie di serie tipo quelli rapidi? Esatto. Sai perché? Per esempio nel mio c'è un caricabatterie, non so, ultra rapido, da 65 watt, insomma li spara troppi ampere, cioè a me non interessa avere il telefono carico in mezz'ora o 20 minuti, cioè così ammazzi la batteria. In estate quando c'è più caldo e gli fai le cariche rapide, la batteria scalda a bestia. Bene non li fa, bene non li fa. Allora io per ovviare a quello certe volte prendo alimentatori da mezzo ampere, da un ampere, li metto l'adattatore dello spinotto, perché sono per i cellulari quelli micro SD, no com'era, micro USB, li metto l'adattatore anziché fargli una carica rapida, soprattutto col caldo, gli faccio una rapida lenta, anche da 500 mA, mezzo ampere, lo lascio tutta la notte e lui piano piano si scarica, perché nel precedente telefono mi si era gonfiata la batteria, si era gonfiata e aveva rotto il guscio posteriore ed era in teoria a rischio scoppio. Se quello piglia fuoco, magari che ce l'hai a casa in carica di notte, magari si è addormentato, non te ne accorgi, ti piglia fuoco la casa. Quello è vero, io lo metto anche sul comodino, tutto legno, anche mi piglia poco tutto. Aspetta, ho capito, sì, è un po' rimbombante, però è l'effetto stanza. Ma tu lo carichi nel mobiletto dove hai il radio? No, lo metto sopra il comodino, capito? Lo metto lì, perché se parlano da lontano, cioè da lontano il microfono. Lo metto sul comodino, capito? Oppure lo metto fuori, lo metto in bagno. Sì, aspetta che io sto parlando già a 20 cm dal mic di 3/4, con una voce normale, però non voce alta. Guarda se mi metto lontano, così sto usando la stessa voce, ma il microfono è lontano, diciamo tutto il braccio, dai, 1, 2, 3, prova. Come a me, io sono tutto il braccio. Si è abbassato un po', però si sente bene lo stesso, non è che si è abbassata leggermente. Conta che questo mic è quello di serie, quello di serie alla fine io mi trovo meglio perché c'ha i tasti di canali, capito? È impagabile, soprattutto quando sei in macchina, che ne so, che poi in macchina non andava bene. Quando sei in macchina, anziché stare a sporgerti, cioè cambi canale in fretta, capito? E che canale di vita che non puoi scegliere da sei canali? No, ma anche per la propagazione già. Se volte guidando una carrellata di canali, vedere se senti gente FM, gente in USB, comunque gente su altri canali. Certo, qua non c'è un granché. La 27 nostra Sassari città sta andando e peggiorando. Non gliene frega più niente a nessuno. E poco anche a noi, alla fine, cioè. io se c'è gente entro sempre. No, io la passione ce l'ho sempre, però se non c'è gente con chi parlo, con uno. Se c'è gente già entro. Poi sono ancora con la voce rauca, ho provato a cantare quando ho alzato i toni, mi veniva da tossire, sono proprio rauco. Con i toni alti la raucidine si presenta. Sì, l'apparato qual era? Quello bello display rosso? Quando? Adesso, qual è quello col frequenzimetro rosso? No, questo qua è il Galaxy. Ah, la base? Sì, il Galaxy base. Mamma mia, quanto è caldo l'apparato dietro, per carità. Non fa proprio, no? Capagala, come va Marco, questo eco, cambio? Diciamo è un eco un po' arrogante, un po' prepotente. E poi Gianni leva quel bip che ti dà un senso di superiorità. Sono già verde di vitale, burudu. Il rosa verde, tutto lo dicevano con quella voce che faceva lui. Doppio ronca, fa. Togli quel bip che gli dà un senso di superiorità nei confronti degli altri. Doveva essere un altro lord inglese anche lui, ho capito, no? Lui diceva sempre che era con una bionda, io pensavo che era di quei puttanini, invece la bionda era la birra. Vediamo se c'è qualcun altro qua. Chi ci è rimasto sul 10? Antonio è andato a cucinare. Qui c'era gente da Tissi, che ho capito bene. Poi quell'altra persona in barra pesante, mi pare. Vediamo chi ci è rimasto. Comunque già, sempre antenna diretta. Sto testando. Bene, bene. Vabbè, se c'è gli apparati che ci segnano le stazionali puoi anche invitarlo, come io ho gli apparati che mi segnano le stazionali, tipo il Galaxy, eccetera. Se voglio non le metto, ma se uso gli altri magari non ci sono, quindi lo uso per tutti, dai. Sì, anche qua c'è. Naturalmente l'affidabilità non è mai a livello di Smith, di Rosmetro Daiva, no? Nemmeno lontanamente. Qua segna 1.1, 1.1. Comunque è utile, dai, meglio che niente, anche se non è molto preciso lo smitter, ti dà un'idea se te ne è volata l'antenna, capito? Ma io ti dico che l'ho confrontato, se con lo smitter ed è uguale, il preciso è identico, quindi non penso che sia sbagliato quello del Galaxy, perché come segna il rosmetro ti segna l'apparato. Sì, se è ben tarato segna abbastanza coerentemente. Ah, ho controllato l'antenna diretta, siamo lì, 26.2, 28.2 sono i limiti soliti, cioè proprio è abbastanza centrata l'antenna, però sempre sui canali sotto una propensione per uno sta proprio a uno. Sui canali un po' più alti, come dire, non è lineare, la curva del rosso, ecco cosa ti volevo dire. Sui canali alti si sbilancia un po' più leggermente verso l'alto, ma è sempre una cosa irrisoria. Tagliane un pezzo. Chi è Franco? Ciao Giovanotti, come state? Ciao Fra, accaldati, quando più quando meno. Gianni, vai per Franco. Vabbè Fra, buonasera, come va? Ecco, va bene, dai, sta rinfrescando, quindi aprite le finestre che ti sta bene, dai. Già fatto. Uia. È un casino, quando c'è questo caldo. Ho acceso l'aria condizionata, l'altro giorno mi ha crepato. La febbre mi è venuta, mal di gola, tosse, raffreddore. Sono ancora un po' così. Guarda, c'è anche il Covid in giro, io ho i genitori tutti e due presi, Guarda, mia madre è già negativa, mio padre è ancora positivo invece, stiamo facendo i tamponi. Cosa, tu radue? Pieno, è tutto pieno. Cazzo, allora, infatti stavo sospettando quello io, ma a me grazie a Dio ho preso ho preso un occhi e mi si è abbassato tutto il raffreddore, non ne ho quasi più, un po' di mal di gola ancora, ma poca roba, avevo anche la febbre, ma pochi niente, 37,8 così c'avevo. Sì, a mio padre è dato un po' di febbre, invece mia madre un po' di tosse così, ma ripeto, sono sintomi un po' lievi, però gli hanno fatto i tamponi a tutti, sono contagiati uno con l'altro, quindi è un casino. Vabbè, dai, comunque come state? Tutto bene? A parte questa parentesi? Sì, grazie a Dio, sì, quando appoggio meglio così. Sì. E vabbè, dai, io accendo, intanto accendo per far scaldare un po' i motori e vi ho sentito. Fai bene. Ogni tanto viene a farci visita, che ci teniamo che entri. E io, Marco. E io, Fra, stavo cercando la ventolina da mettere dietro. Aia. Oh, non ci puoi mettere la mano, eh. Ci puoi friggere le uova su queste alette di raffreddamento. Quindi riprendete voi un attimo. Ma dalla radio. A parte che scaldano così non è ovvio, vanno tutti bene. Intanto fra poco io vi lascio perché devo portare anche il cane in giù. Qui domani devo alzarmi presto, devo andare a prendere mia figlia all'aeroporto. Cappa, come va Tyson, come sta? Bene, bene, mi qua vicino a me, già sta bene, sì. Sono il caldo, soffrono anche loro pure a rigide. Ogni tanto lo bagno, ma soffrono molto il caldo i cani. E se prendono il colpo di calore devi stare un bel attento perché possono anche morire. Caspita, anche io il gatto lo stesso, ma appena sente il bip del climatizzatore si sdraia in terra lì. E Matteo non le ha fatto vedere l'otite, lo sai, il climatizzatore, facendo così, dopo non c'è più tornato, se ne va in cucina quando lo accende. A lui le piace, se lo guarda anche, appena lo accendi rimane incantato, affascinato da questo, forse dalle alette che si muovono, dal rumore, poi anche lui è un gattone peloso, quindi soffre anche lui il caldo. Come era il mio era un bel bello. Titi si chiamava il mio, era bellissimo. Questo si chiama Geo. Prima era un maschietto, adesso è stato adesso. A suo tempo è stato alleggerito, no? Adesso è Gea. Adesso è Geox. Allora, l'abbiamo preso per essere femmina, Gea, davvero, Ci hanno portato da San Luri, zona di Cagliari, da. E ha detto, a me non mi sembra che questa è Gea, non è Gea. E poi alla fine abbiamo fatto l'intervento ed è diventato Geo. Ma è di razza, è un gatto di razza. E sono quelli rossi tigrati, pelosi, molto pelosi. Davanti c'è una criniera che sembra un leone, davvero. Ma non è persiano, il mio era persiano. No, non so come si chiami la razza. È una razza particolare, anche come carattere un po' difficile. Ecco. Non ce l'ho presente cosa possa essere. Se un soriano. Che colore è? È arancio, quindi arancioni. Tigrato, tutto tigrato. E poi invece la criniera è bianca. Deve essere bello. Poi i gatti sono indipendenti, non devi stare a scendere giù, a portare, a fare. Una volta ho visto questo qua, la ragazza d'Eredda, che aveva il gatto a guinzaglio. Le ho comprate anche io, ho provato a metterlo, cazzo, mi si è attaccato e mi è entrato le unghie dentro. Aveva paura. Le prime volte anche mio figlio e mia moglie hanno provato, hanno sbagliato a portarlo qualche volta fuori, a parte che aveva paura, e mettergli la pettorina è stato un po' un trauma, dai. Ho uscito dal portone, sentivo il rumore delle macchine, si è addirbinato, sembrava un tappettino, su piatto piatto si è fatto. E adesso come va? Adesso invece mi ha rovinato il portone d'ingresso, perché qualche volta ha provato a far capire che voleva uscire, capito? Ma il guinzaglio ce l'ha fa portare? No, poi alla fine ci abbiamo rinunciato, anzi adesso quando esce lo sgrido, non voglio che esca. Perché si faceva anche il giro dei pianerotti, andava a trovare gli altri, no, capito? Lo facciamo entrare in casa gli altri. Qua c'è tutti con la puzza sotto il naso, addirittura una proprio ha fatto la riunione perché a una signora gli è scappato il gatto e lì dice che aveva l'asma e che non voleva tappi mezzo pieni, questo e quell'altro. Ho fatto una riunione, apposta, gli abbiamo riso in faccia a tutti. No, qua sono abbastanza tolleranti, anzi, se lo coccolano, perché è un bel gattone, dai. Lui, avvicinati a Marco, è rientrato. Marco, la ventolina era freddato? Sì, l'ho poggiata dietro. Perché l'elastico non lo posso mettere, se no devo togliere il piede, l'ho proprio poggiata, non è ad aspirare però, è a soffiare, soffia ventola, verso la ventola, le alette, dai. E comunque è efficace, basta quella, per dire, potevano metterla di serie come la mettono in quei VHFB banda veicolari, ma non ne mettono mai nei baracchini. Capo, no, questo che sto usando adesso non ha il dissipatore, però a volte scalda, quindi ce l'ho anch'io pronta la ventolina di quelle da piccoline da computer. Se vedo che sale troppa temperatura l'attacco qualche minuto, è sempre meglio, dai, insomma che si frigano i finali. Sì, anche perché questo monta un finale assurdo, non mi ricordo manco la sigla. Questo dovrebbe avere 50 watt in FM, in banda laterale gli stessi, in AM loro dicono 15 più 30 modulati, però non so se modulati siano PEP e quindi è una burla, oppure effettivi, quello non l'ho mai verificato. Stai usando quelle cose di sigla, 799, com'era? Allora, questo è il CRT 9900. No, 2009, sì, no, sono belli apparecchi qui, li danno, sì, li leggono a volte le cose, da 60 watt, caspita, sono parecchi, Sì, poi, vabbè, io 60 non li ho mai visti, forse col carico fittizio riesci a vederli, a misurare, poi l'antenna sono sempre meno. Poi dipende dalla banda, magari sulle bande alte te ne dà di più, poi questi nascono mi pare sempre per i 10 metri, in teoria, e gli mettono l'eco, cioè chi andrebbe in 10 metri con eco, bip, tutte le menate. Va bene, vado a bere, riprendi Gianni. Sono apparecchi completi, poi chi vuole usare li usa, però ce li ha, se li vuole usare li può usare. Non tutti li usano, ma sono completi come apparecchi. Sono belli, anche esteticamente sono belli. Ogni tanto viene il poeta, ma non c'è nessuno, spendere soldi ancora. Ne ho già due di questi antichi, vecchi, ancora vanno. Sì, quello è un bel apparecchio. Esce bene anche di radio, vedi, anche col mic normale. Un bel apparecchio davvero. E poi c'è anche l'eco a Marco gli dona perché non è molto alto. Come Tony? Sì, gli dà un'amplificazione giusta, tranquilla. La mia com'è la voce? Come tu, normale, medio, basso, vai, bassi non credo. No, già va bene. Una modulazione media, dai. Media, dai. Io la modulazione di Franco la vanto sempre, una delle migliori modulazioni, bella, neutra, senza effetto stanza, effetti metallici, né cupa, né metallica, né rimbombante, capito? A me piace una modulazione così, bella e chiare, che non devi dire bassa, alza, allontanati, avvicinati, no, è perfetta così, ma quella è lo Shure. Sì, all'inizio avete parlato assieme, sì, questo è lo Shure, no? Ma anch'io non smanetto mai, ormai esce bene così e lo lascio così. Ehi, bene, adesso provo a levare l'eco, vediamo cosa ne esce. Comunque non è fastidioso, Vedi Fra, qua è una rogna perché ti devi ricordare, c'ha tre cose di menù, cioè tre menù differenti. Uno l'attivi tenendo premuta la mano per i canali, tenendo la premuta. Uno l'attivi col tasto menu e poi la mano per i canali. Oppure ce n'è un altro ancora tenendo premuto menu. E ogni volta ti devi ricordare dov'è la voce che ti interessa, capito? Noise blanker, bip. È un po' una seccatura, però hai il vantaggio che hai il frontalino stretto, piccolo, con pochi tasti, poca roba. Però ogni volta ti devi ricordare tutta la prassi, capito? Poi non ne parliamo il come si chiama l'altro? Il presidente McKinley non ne parliamo, lì c'ha solo quattro tastini frontali e c'ha quattro funzioni per ogni tastino e ti devi ricordare di volta tutto, per carità. Lo devi usare spesso, quando si usi, veramente, sicuramente ti dimentichi da una volta, anch'io quel portatilino che ho, anche quello lì è fatto tutto con menu e sottomenu, ogni volta devo aprirmi il manuale perché mi dimentico. Ecco, allora ho tolto l'eco, vedete un po', adesso la modulazione sarà più squallida, cioè più squallida di prima. No, va bene, va bene. Questo l'hai modificato tu, per ampliarlo di banda, per dargli anche gli 11 metri, oppure l'hai preso già così? Allora, oddio, no, credo che il venditore lo vendesse già così, o su richiesta. No, perché sai, se a volte mettono l'annuncio o sui negozi dicono già versione full, da 25 e tanti ai 30. Molti li vendono solo per 10 metri, invece molti ti hanno la modifica o gratuita, a volte a pagamento addirittura, aggiungi qualcosa, una quindicina di euro. Eia. E poi certe volte vai a scoprire che la modifica, sai in cosa consiste? Tenere premuto un tasto all'accensione, cioè tieni premuto, accendi, fatta l'ampliamento di banda. Per certi è così, però loro non te lo dicono, capito? Trovano, aspettano il gonzo che voglia la modifica già fatta. Mi pare che nel 7009 era così, però qua lo dico, qua lo nego, perché le schede sono molto simili, però non tutte uguali. In qualche apparato devi tagliare un ponticello, eccetera. Gianni, riprendi. Io sto seguendo anche l'altra cosa dell'abbreviazione. Sì, è così. E molti fanno anche le modifiche nel 48, quando li ordini ti chiedono se lo vuoi con la modifica, te la fanno. Allora già, questo 3009 versione 2023 lo vogliamo prendere o no? Cosa, Marco? Questo 3009 nuova versione lo vogliamo prendere o no? È bello, molto bello, però cosa prendi? Lascia perdere, troppe spese. Guarda, ti dico solo che accedere ai menu di quell'apparato è un vero incubo, perché per modificare alcune impostazioni o voci di menu devi spegnere l'apparato, tenere premuto una cosa, accendere, e poi tutte le informazioni ce l'hai da quel misero indicatore dei canali che ti dà degli idiomi, dei simboli strani che devi ricordarti che sono per una certa funzione. Quello già è un incubo, però se uno lo usa come un 3009 normale, senza menate, senza bip, senza echi, senza cose particolari, già è carino. Praticamente è lo stesso ricevitore del 5005, del 7009, capito? Sì, ho capito. Vai, presto. Come fa? I prezzi come vanno? I prezzi? Di questo apparecchio, Ma del 3009 nuovo? È sotto i 200, a filo dei 200, senza modifica. Cioè, nasce omologato, multibanda, multistandard, no? Germania, Inghilterra, soprattutto Inghilterra è carino, no? Poi naturalmente se vuoi fare una cosa buona ti compri il cavo di programmazione, lo colleghi al computer e puoi personalizzare i canali una volta espanso, tipo ti puoi riservare una banda, ti puoi mettere la banda inglese che hanno le FM che sono spostati di canale, no? Non coincide ai nostri canali, insomma te lo puoi personalizzare meglio. Bello, esteticamente è bello. Allora, esteticamente è un 3009, identico, Superstar 3009, display canali rosso, però sotto c'è la scheda del 5005, 7009, non ho capito bene la differenza, ma siamo lì. Le potenze come vanno? Sono regolabili? Da quanto vanno? Allora, omologato 4FM, 12 SSB, versione export, purtroppo, arriva mi pare 10 o 12 AM, mattina FM non mi ricordo, e mandatela nel dopo, insomma. AM fai 12 watt e mandatela ai 12. Perché ho detto purtroppo? Perché la potenza non è regolabile. Cioè, nonostante tutte le funzioni di quella scheda lì, la potenza, una volta fatto export, non è regolabile. Ed è un problema pilotare i lineari. O uno si usa i watt suoi. Quella è una grave pecca, secondo me. Cioè, a meno che non abbiano risolto la cosa mettendo la voce di menu power, non lo so quello. Adesso lo devi abbassare tu dall'interno, magari, però una volta che la fai, la modifica è, diciamo, è quasi permanente, dai, non puoi stare sempre ad aprirlo. Come ho fatto io, questo l'ho abbassato a più o meno a 4,5 watt, dai, perché questo usciva con 10, proprio per usare l'Alfa Lima. Spero, sì, praticamente. Allora, sai cos'è la modifica di questo 3009 nuovo? Tagli un ponticello bianco, un cavetto bianco interno, lo tagli e diventa multicanale e con questi watt fissi. Però io spero che sulla scheda dai trimmer si possa anche abbassare la potenza, in modo da pilotare il pilotabile, no? Tanto è inutile che esci con 10 watt, a 4,10 non cambia nulla. Invece se usi 4 watt e poi gli metti un 747, un 203, il minimo sindacale è già una grande differenza, ecco. Sì, no, io mi trovo bene così, ne guadagna, ne giova la radio, inutile avere, non so, 50-100 watt in più e poi penalizza la radio, meglio qualcosa in meno, è una buona radio, io la penso così. Sì, va bene, l'importante è poter pilotare con potenze basse, quella è la chiave. Per esempio, già, quella storia del tuo aggeggio, no? Io non capisco perché sei nato predisposto apposta per ricevere pilotaggi maggiori, saturava. Io non riesco a capirlo quello. Allora, ci sono da 10, ci sono anche da 20 watt, quindi io l'ho preso da 10, ho fatto una cazzata, ecco così. Ma tu mi hai detto che avevi preso la versione, quella con l'ingresso che accettava più watt, che io ricordi. No. Allora, poi è strano già, perché anche pilotando in basso, no? Quello lì ha tutti i finali a MOSFET, ne ha mi pare 9, uno è il pilota, presumo, e gli altri sono quelli di potenza. Sono tutti MOSFET, sono gli stessi del 203, alias 747, quindi in teoria non dovrebbe nemmeno saturare. Ah, a proposito, l'altro giorno su eBay cercavo quel venditore, S Radiotel, e non lo trovavo. Trovavo tutto dall'Inghilterra, le cose non lo trovavo più. O si è tolto da eBay, oppure ho sbagliato io la ricerca. Invece S Radiotel come negozio online c'è, al di fuori di eBay. E i prezzi naturalmente di quella roba lì lievitano, ogni anno che passa salgono di prezzo sempre, anche il piccolino, anche il 203, mi pare sia arrivato a quasi 80 euro, spedito. Vai Franco. Sì, io invece sto usando il 507, però non so che tipo di finale io mi monto. Il 507 cos'è, a 12 volt? Sì, c'ha un alimentatore, diciamo, interno, secondo me è un po' sottodimensionato, perché mi accorgo che si abbassano un po' troppo le luci. Ah, ma ZG, non RM Italy. No, ZG, un po' vecchiotto, sempre anni 80. Là. Adesso guardo che finale monta. Saranno i soliti a croce, quelli MRF Shalala. C'ha sei potenze, sei livelli, dai. Già, ne riprendi. Io sto guardando su internet se trovo i finali, per curiosità, sapere il finale monta. Deve essere un attimino, sto chattando con una persona, scusa. Acciuppando come? Diciamo che si rassomiglia un po', ma cambiano i metodi, però è quello, dai. Internet, quando cerchi la risposta alle cose, fammi vedere i finali, porca miseria. Allora, io vedo un apparato aperto, se questo si vede, la sezione di alimentatore con un trasformatorone anche, poi il circuitino di alimentazione, poi il vero e proprio lineare, praticamente gli hanno messo anche quello con le bindelle dorate, come si dice, gli hanno messo dentro un altro contenitore e mi sembra di vedere due finali a croce, saranno i soliti MRF, boh, adesso non ricordo la sigla, saranno 455, poi sto cercando anch'io, è un po' pilota per un Galaxy, oppure non parlo dei finali qua, sono su, cos'è questo qua? Io sto andando per foto, però ogni volta mettono queste foto tutte sfumate, se siamo nel 2024 sembrano foto foto fatte con quelle videocamere 320x240, quelle degli anni 90, mi. Tutte sgranate, là. Ah, lo vendono ancora, vedi? È ancora in vendita. Ah, la ZG lo fa, d'altronde adesso cosa c'è? C'è il 507 e poi il B2002 mi pare si chiamano. Ah, questo è allora, B507 è 700 euro. Icata. Quindi nuovo di negozio, 700 euro, alla faccia. FLQ elettronica. Ecco, FLQ elettronica, diciamo, non è dei più economici, però se il prezzo è quello, grosso modo mi può cambiare i 50 euro, ma siamo lì. Tu pensa che il presidente McKinley, l'ho visto 300, una cosa folle, ma questi sono matti, io l'avevo pagato 200 spiccioli, poco più di 200, forse era un'offerta di lancio, e poi l'avevo preso da Media Globe fa prezzacci che non li trovi da nessuna parte. La FLQ elettronica 300, quasi 350 euro, un baracchino trodiato, potrei dirlo, no? Anche io ho preso il cavo, ho preso lì da Media Globe, sì, c'è prezzi ottimi, però mi dà disponibilità esaurita, quindi non è disponibile. Sì, FLQ elettronica conserva certe pagine e non le vuole cancellare, però mette esaurito, però le lascia per come referenza. Per fare scena un po', dai. La dice poi qua, allora, frequenza, ingresso da 1 a 10 watt in AM, da 1 a 20 in STB. Potenza massima di uscita 300 watt, peso 11 kg, insomma già è bello massiccio, dai. Non necessita di essere accordato. Allora, fra, io da FLQ elettronica ho comprato tante cose. In due occasioni diverse ho avuto un problema con degli apparati. Uno con uno scanner, uno con dei PMR digitali. Non ha fatto alcun problema. Spedito indietro, sostituito. Senza fare ma l'hai rotto tu. No, sostituito subito. Quello c'è da metterlo a proprio vantaggio. C'è un venditore serio, non come qualcuno dalla Toscana, capito? Un lestofante, lasciamo perdere. Anche qualcosina in più, però hai un bel servizio, dai. No, che poi i prezzi di quello toscano sono uguali se non più salati, capito? Però proprio i venditori, a certi non gliene frega niente, vanno a dirti l'hai rotto tu, capito? Secondo il baracchino sembra una cosa delicata, li puoi mettere un'antenna non adatta, poi surriscaldare i finali, bruciarli, però certe volte non c'entra. Ti spiego il problema. Uno era un ricevitore da tavolo, quello che ho qua, l'Uniden. Praticamente i tasti sotto al display, quattro tasti sotto al display hanno smesso di funzionare all'unisono, come se fosse